nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, ben ritrovati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24 dedicato alle donne e ai temi del lavoro. Programma che ha la smisurata ambizione di ridimensionare il mito del multitasking, quella che è una delle più grandi fregature inventate contro di noi e create, secondo me, per farci sentire sempre un po' inadeguate. Ma questo non significa che tutte le donne abbiano sempre ragione. Noi, per esempio, cominciamo ogni puntata, ogni domenica, con la donna imperfetta della settimana. E a chi andrà attribuito l'ambito premio questa settimana? It's a moment of truth to see if we are really Europeans, if we are really a union. But this is also a test for our international credibility. La nostra donna imperfetta parla un inglese perfetto. Eppure è italianissima, anzi romana, de Roma. Federica Mogherini, alto rappresentante per la sicurezza e la politica estera europea. Perché è la donna imperfetta della settimana? Perché si è trovata al centro di polemiche e le cronache le hanno addebitato la responsabilità di avere di fatto escluso l'Italia, il suo paese, dal vertice convocato a Parigi dal ministro degli esteri francesi Laurent Fabius, vertice sull'Iran, ma nel quale si parlava anche di Siria e anche di Libia, paese che, come sapete, all'Italia sta molto a cuore, non soltanto per le tradizioni di colonia che ha avuto nel ventennio mussoliniano, ma soprattutto perché adesso dalla Libia arrivano parecchi migranti. Insomma, la Mogherini, che sedeva al tavolo come alto rappresentante per la politica estera europea, quella che si chiama Mrs. Pesk, non ha coinvolto l'Italia. Una sbadataggine? Una mancanza di attenzione? Un eccesso di sicurezza? Sta di fatto che molti si sono irritati e tra questi si è letto sui quotidiani anche il presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Ora, tutte le nostre vite sono costellate di sbadataggini, di mancanza di attenzione, di sviste, di sottovalutazioni del problema. Ma quando hai grandi responsabilità, insomma, hai anche poche giustificazioni. La sigla di Grey's Anatomy introduce il tema di questa puntata. Si parlava di grandi responsabilità e di motivi che inducono a tenere, diciamo, l'attenzione ben concentrata. Si parlava della donna imperfetta della settimana, per noi Federica Mogherini, ma chi nelle varie professioni che conosciamo ha più responsabilità di un medico, di una persona di scienza? Ed è guardando a questo tipo di responsabilità che noi vogliamo un po' dedicare la puntata di questa domenica. Se avete un'idea per la donna imperfetta della settimana prossima, potete scriverci a nessuna è perfetta senza accento @radio24.it oppure mandarci un sms al 349-238-6666. Potete commentare la nostra scelta se abbiamo sbagliato a identificare nella Mogherini la donna imperfetta della settimana o se invece siete d'accordo usando l'hashtag Nessuna è perfetta su Twitter. Il momento dell'agente provocatore è arrivato. Io saluto Mario Giordano, direttore del TG4. Buongiorno Mario Giordano. Buongiorno a tutti. Di eccessi e di, diciamo, eccesso di sicurezza oppure di sbadataggini è costellata la vita di tutti noi. Però nel mondo della scienza forse si sottovaluta il carico di responsabilità che invece le donne sono pronte ad assumersi. Mi viene da citare, e vorrei sentire la tua opinione, caro direttore, Lauren Summers, l'ex ministro del tesoro di Bill Clinton, che da rettore di Harvard anni fa sostenne in un convegno a porte chiuse che le donne sono biologicamente svantaggiate nel campo scientifico. Un anno dopo, rettore di Harvard, c'era una donna e non c'era più Lauren Summers. Mi sembra una scemenza colossale, a parte che se in questo senso, come dire, sono poco agente, sono poco provocatore, magari un po' agente sì, ma poco provocatore, perché mi sembra veramente una scemenza, mi sembra che sul riguardo si siano dette appunto tante scemenze. Leggevo l'altro giorno che la Elizabeth Blackburn, che è l'autrice della scoperta del meccanismo di protezione molecolare dei cromosomi, ha ricordato che quando era al liceo un professore gli disse: come mai una ragazza tanto carina come te vuole occuparsi di materie scientifiche? Perché sono più brava di te, ora gli potrebbe rispondere. Mi sembra appunto che faccia parte di quel carico di scemenze che attengono a un retaggio culturale che purtroppo esiste, ma che non ha niente a che fare con l'elemento fattuale. Anzi, io ritengo che dal punto di vista pratico dell'intuizione, della capacità di realizzazione, del pragmatismo di arrivare al punto, che quindi è quello che fa di una ricercatrice, no? di intuire dove si può arrivare e di non arrivare, in questo le donne sono mille volte più abili e più capaci, anche per l'abitudine alla soluzione dei problemi quotidiani che hanno da sempre di noi. Quindi ti sposto sul terreno invece del tuo lavoro di direttore, sempre per restare al campo della medicina, delle scienze. Nel giugno scorso Tim Hunt, Nobel per la medicina, ha detto che la presenza delle donne nei laboratori rende tutto più complicato, perché hanno un carattere diverso, se le rimproveri si mettono a piangere. Ti è capitato che una tua giornalista di fronte a un tuo rimprovero si sia messa a piangere? Come hai reagito? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ti è successo, eh? Mi è successo, succede tante volte, ed è ovviamente, come dire, diverso trattare con le donne rispetto agli uomini, e ci hanno reazioni diverse, ma non per questo sono peggiori, nel senso che anche il fatto di mettersi a piangere dimostra una sensibilità che, per esempio, nel nostro lavoro, come tu sai e ci hai anche spesso insegnato, quando, è fondamentale. Quando una collega si mette a piangere, e mi sembra di capire che succeda ancora, come reagisci? Col silenzio, aspettando che finisca, e generalmente dopo il pianto, che è liberatorio, si apre, come dire, uno sfogo che porta sempre a un chiarimento. È sempre liberatorio il pianto, non è mai una cosa negativa, quindi se c'è il tempo, se c'è il modo, poi ovviamente. Ma per te, da maschio direttore, sì, onestamente lo consideri un segno di debolezza, perché gli uomini non si mettono a piangere, le donne sì, se di fronte a un errore, a un rimprovero, la consideri una debolezza, onestamente? No, da questo punto di vista, ripeto, no. A me l'unica cosa che ti posso dire che crea problemi è quando ci sono tante donne insieme, ecco, gli elementi di presenza, di equilibrio maschile, perché tende non al fatto del pianto, dell'emotività, quanto alle crisi di nervi, oppure a possibili invidie, oppure a perdersi rispetto ad alcune questioni, diciamo, un po' di marginali. Ecco, ogni tanto quando c'è una elevata concentrazione di donne, io nelle mie redazioni ho spesso avuto elevate concentrazioni di donne, c'è questo rischio. In chiusura, nella tua esperienza ormai da tanti anni, governi redazioni di uomini e di donne. Qui stiamo parlando, questa è una puntata dedicata anche a come conquistarsi la fiducia di un capo. Puoi dare un consiglio alle donne che ci ascoltano? Non rinunciare ad essere se stesse, anche con le proprie fragilità, ma non essere troppo donne, ripeto, nel fare circolo con le donne, non considerare la femminilità come una specie di tessera di partito, nel bene e nel male, come un'appartenenza, come una lobby. La cosa che secondo me rende sempre è il gruppetto delle donne, che fanno della femminilità un'arma di battaglia, un'arma di lotta, un'arma di rivendicazione. situazione. No, le donne, se se la giocano da sole, sono straordinarie, fortissime, meravigliose. Qualcuno direbbe che però invece gli uomini sono abituati a giocare in gruppo, perché alle donne questo non deve essere consentito? E no, anche gli uomini secondo me sbagliano quando giocano in gruppo, sono per la cosa, però non deve essere consentito, perché secondo me alla fine fa il loro male. Lo ripeto, se io devo dare una cosa nel loro consiglio, nel loro interesse, il giocare in gruppo alla fine indebolisce, perché mette in evidenza i lati più meno buoni, meno forti del carattere femminile, e invece giocare da soli secondo me mette in evidenza la straordinaria agente forza. Agente provocatore, ancora una volta hai provocato, perché se ci fossero qui molte donne che io conosco direbbero che questo è un modo di divide timpera, ma Mario Giordano, devi tornare assolutamente, e questa volta a parlare proprio delle ultime cose che ci hai detto. Grazie e buona domenica. Grazie, buona domenica. Buona domenica. Noi ci fermiamo, vi ricordo che potete sempre scrivere sul nostro indirizzo mail nessunaeperfetta@radio24.it se siete d'accordo con il nostro agente provocatore Mario Giordano, o se invece pensate che l'unione fa la forza per le donne come per gli uomini. Su Twitter l'hashtag è nessunaeperfetta. A tra poco. Nessuna è perfetta. E chi sarà la nostra Sunday Girl della domenica? È una bellissima giovane attrice che ha appena è stata appena protagonista di un film che si chiama Ma che bella sorpresa, e quando si dice il caso, il protagonista del film, che è un professore di liceo interpretato da Claudio Bisio, che cosa le regala alla fine del film? Le regala un libro che si intitola La donna perfetta, e noi non potevamo che avere lei, che è la nostra Sunday Girl Valentina Lodovini a Nessuna è perfetta. Buona domenica Valentina. Ciao, buona domenica. Ma sono gli uomini che ci vogliono perfette o siamo noi ad avere questa ossessione? Sai che secondo me, posso darti del tu? Certo che sì. Sì, d'accordo, secondo me siamo noi. Secondo me, poi gli uomini ci mettono del loro, per carità, indubbiamente, no? Poi insomma viviamo in un ambiente che dire che è misogino è dire poco, lo sappiamo, no? Nel senso, non è che dico nulla di nuovo, però io credo che anche noi donne ci mettiamo del nostro, purtroppo, ahimè, dovremmo sforzarci, no, sempre di essere così perfette. Nel film Ma che bella sorpresa, a un certo punto tu riesci a conquistare la fiducia e l'attenzione di Bisio, che è ossessionato dalla donna perfetta che si è inventato nella sua testa. Esatto. Tu come sei riuscita a conquistare, diciamo, la fiducia professionale dei tuoi interlocutori, dei registi, dei produttori? Come si fa? Certo, bisogna saper recitare, nel tuo caso, se uno non sa recitare è ovvio essere anche brave in quella specifica parte, ma parlando in generale, c'entra anche il fattore credibilità? Allora, secondo me sì, io credo che poi ognuno va verso, no, ciò che gli appartiene di più, verso ciò che è più vicino alla sua natura, e quindi di conseguenza scegli e vieni scelta da ciò che ti è più vicino, per cui io credo che la serietà, la professionalità, senza prendersi troppo sul serio, nel senso seri sì, ma poi scherzando e tutto, sicuramente io credo che un atteggiamento seduttivo, ad esempio, non paga. Non è qualcosa che però, se hai un atteggiamento seduttivo, se ti basi solo su questo, secondo me non puoi creare nel tempo, mentre invece delle basi solide, diciamo metodo e talento, unite all'ironia, unite al saper stare anche nel mondo, insomma, no? Alla generosità, anche secondo il me nostro, è importante. Il nostro agente provocatore di questa domenica, Mario Giordano, direttore del TG4, mette in guardia le donne, lui parlava delle redazioni, ma forse può valere in qualsiasi lavoro, dal fare gruppo, dal fare comunella. Dice no, le donne che usano il fatto di fare lobby si mettono in cattiva luce, devono presentarsi come individui e contare sulle loro personali qualità. Io gli ho fatto notare che però gli uomini hanno sempre fatto catena e corrente, perché le donne no? Esatto, anzi secondo me questo è un nostro limite, no? Davvero, ci hanno giocato per secoli nel dividerci, o no? Esatto, ciò che c'è, ma cioè comunque anche poi quando lo siamo unite non ci percepiscono, facci caso, no? Gli uomini rispetto alle donne sono molto molto più avvantaggiati, cioè fanno comunella e viene accettata questa comunella, quella delle donne no, non so come dire, a parte che è rara, almeno io ti parlo per la mia esperienza personale. Ecco, com'è nel mondo del cinema? Voi siete amiche fra voi? Beh, poi non ci sono registe donne, pertanto è molto difficile. Ce ne sono molto poche, esatto, anche di tecniche, purtroppo, e questi sono dati, cioè non è che qui ognuno, no, non ci sono delle percentuali, sono troppo poche. Ma io ti parlo sempre per la mia esperienza personale, rispetto molto, non c'è, cioè molti provano a mettere zizzania, no? tra attrici, provano. Eh beh, un po' ci provano. E perché? Perché? Qual è il vantaggio di mettere zizzania tra le attrici? No, forse gli divertono le gelosie, le competizioni, le cose, non lo so perché lo fanno. Io ti dico, non ho amiche, mie colleghe, nel senso amiche quelle vere, no? L'amicizia, quella intesa proprio con la maiuscola, però c'è molto molto rispetto, e già questo io credo che sia tanto, no? È tantissimo. Stima e rispetto, vabbè, la stima ovviamente non per tutte, ma questo è naturale, no? Tu hai detto in una intervista, in varie interviste, la carriera si fa con i no. Quali no hai pronunciato? Guarda, una molteplicità, dovrei fare l'elenco. Ma dicene uno con nomi e cognomi. Oddio, sai che non mi vengono in mente perché poi li rimuovo. Diplomatica? No, però è vero, perché io poi li rimuovo, perché in quel momento ci penso molto, prendo una decisione che è comunque sempre molto, c'è molta riflessione dietro, ci sono milioni di cose, poi dico no e basta, finisce lì. Però sì, credo che andare dietro c'è anche un'etica nei confronti del proprio lavoro, no? Cioè prendere il primo film che passa perché in banca serve rimpinguare il conto, non lo fai? No, poi indubbiamente ci devo sopravvivere con io non sono ricca di famiglia, devo sopravviverci col mio lavoro, però non vado dietro al soldo. Ecco, a proposito di questo, è una cosa molto femminile questa, Valentina, perché tu hai dichiarato: con i soldi credo di avere un rapporto sereno, li presto, li do, se serve lavoro anche gratis. Questa cosa che le donne per passione per il lavoro lavorino gratis è un limite, non è togliere valore alla propria professionalità. Ma dipende. Allora, innanzitutto c'è da dire che naturalmente io posso fare questo discorso perché sono una privilegiata, nel senso che comunque ho un lavoro, no? E posso anche scegliere, dire no, dire sì, cosa che in questo periodo storico, insomma, non... Non molti coetanei tuoi possono fare. No, direi di no, sì, che parto da questo presupposto. Poi non sono una che è alla ricerca del lusso, non so come dire, non me ne frega nulla, e allora alle volte c'è talmente difficoltà, cioè non è tanto un togliere valore, perché appunto è importante, comunque si fa il lavoro, devi essere remunerato, questo è giusto, no? Quindi è sacrosanto. Il punto è che nella mia realtà, cinematografica e teatrale italiana, purtroppo servono fare certe cose proprio per difendere il tuo lavoro, proprio per difendere il tuo mestiere, cioè l'opting, ciò in cui credi, anche così. È anche un investimento sul futuro, partecipare a un film in cui si crede, magari va bene. È anche investimento, sì, fondamentalmente io dico, amo molto più il cinema che me stessa, questa è la verità, ma sono fiera di questo, anche se a volte ne soffri anche, a volte paghi anche un prezzo, no? C'è una solitudine, ti porta una solitudine, insomma ci sono tante cose, ma comunque amo più il cinema che me stessa. È un fattore anche... va aiutato il cinema. Non c'è dubbio, va aiutato senz'altro. Ma la letteratura, come insomma lo sappiamo. Siamo tutti convinti che un paese migliore ha un cinema forte e tanti scrittori che riescano a pubblicare. Esatto, ma perché il cinema è l'identità di un paese, sicché questo è importante. Poi ripeto, io posso anche farlo perché magari con un film guadagno, quindi se quello successivo in cui credo di più ho bisogno di una mano, cioè non ci sono le risorse, allora posso però, cioè ho la fortuna per ora quantomeno. Certo, è un caso di privilegio. L'ultima cosa che vorrei chiederti fa sempre, come dire, sta sempre nel nostro fil rouge di aiutare chi ci ascolta, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, a fare un po' chiarezza anche nelle proprie dinamiche professionali. Conta molto essere sicuri di se stessi, c'è chi si sicuro in autonomia, chi fa analisi, chi studia, chi si confronta con i colleghi. Ho letto che hai superato un periodo buio semplicemente andandotene da sola su un set in Argentina. Non tutti possono avere un set che li aspetta in Argentina, ma è utile stare da soli 3 mesi? E solitudine in che senso? Senza amici o proprio sola sola? Com'è questa cosa che la solitudine può rafforzare? Ma indubbiamente secondo me non bisogna essere spaventati dalla solitudine, questo è indubbio, no? Perché comunque l'indipendenza, cioè non so come dire, si rimane mai soli perché abbiamo noi stessi. Quindi partendo da questo presupposto, poi secondo me è importantissimo l'amicizia prima di tutto, l'amore, il lavoro, cioè il condividere, il fare cose, esperienze. A volte serve fermarsi, a volte serve il silenzio, a volte per riordinare pensieri in qualche modo, no? In quel caso a me mi ha fatto bene perché non riuscivo più a distinguere, più che altro sono stata catapultata in un paese, cioè appunto c'era l'oceano di mezzo, c'era il jet lag, c'erano tante cose e mi ha aiutato, come dire, è stata una sorta di pulizia, no? Cioè, perché era un momento difficile dentro di me, ero un po' in guerra col mondo, no? Era un po' un momento di inquietudine, di vulnerabilità come accade spesso, no? Accade a tutti, insomma, spesso spero di no. E poter mettere della distanza è un grande privilegio. Se uno non può andare dall'altra parte del mondo, però ci sono tante possibilità, no? Cioè, di stare da solo per un po' con i propri pensieri e senza, cioè, e senza il cellulare acceso. Esatto. Sì, cioè disintossicarsi da cellulari, social, anche questo fa molto. Grazie per. Certo, per questo ultimo suggerimento che Valentina Lodovini ci ha voluto regalare, io ti auguro una buona domenica. E a proposito di social, però, io lo devo dire, che cosa pensate di quello che ci ha appena consigliato Valentina Lodovini? Ve ne andreste dall'altro capo del mondo spegnendo il cellulare? Se dovete mettere un po' di pace tra voi e il mondo stesso, scrivetecelo su nessunaeperfetta@radio24.it o Twitter usando l'hashtag Nessuna è perfetta. A tra poco. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno. Questo è il momento della lettera della settimana e questa volta parliamo di un problema di corsia. A scriverci è infatti una medica chirurga. Mi chiamo Giusy, sono un medico specialista in chirurgia generale, ma ho deciso di dedicarmi al pronto soccorso e a interventi di piccola chirurgia e di rinunciare a fare la chirurga di sala frustrata. Questo per una ragione ben precisa. Chi si farebbe operare da me in quanto donna? Le primarie in Italia sono pochissime e il più delle volte si tratta di donne baciate dal privilegio del nepotismo. Non sarebbe ora di fare spazio alle donne nei posti che contano, per esempio anche nelle sale operatorie, dove ancora oggi si vedono sottrarre il bisturi dalle mani da parte dei colleghi uomini? Cara Giusy, quanti temi in una lettera, tu dici, non sarebbe ora di fare spazio alle donne nei posti che contano e poi ricordi che nel mondo della medicina le primarie donne sono poche, che le chirurghe sono ancora di meno e che insomma c'è una vasta opera di ammodernamento nella medicina e in generale nella scienza in Italia ed è proprio allargando il campo alla scienza che i due esperti che su questi punti discuteranno con noi questa domenica sono una scienziata di fama internazionale, famosa virologa e temporaneamente anche parlamentare per scelta civica, pur avendo rinunciato allo stipendio da parlamentare. Insomma, sto parlando di Ilaria Capua. Buona domenica, Ilaria. Buona domenica. E in collegamento con noi c'è anche un primario maschio, primario di chirurgia all'ospedale di Brindisi, il dottor Giuseppe Manca. Io comincerei proprio da Ilaria, e scienziata veramente di fama internazionale. Dice il medico Giusy, donne primario non ce n'è, quelle poche sono lì per nepotismo E noi chirurghe studiamo, si spendono un sacco di soldi per formarci, ma poi alla fine ci fanno fare le chirurghe di sala per cose di poco conto. È così. Allora, grazie Giusy, perché la tua lettera solleva dei punti importantissimi. La prima cosa che mi viene da dirti è che siamo noi che dobbiamo rompere questi stereotipi, cioè se noi donne che tanto abbiamo fatto, che tanto abbiamo studiato, che tanto abbiamo imparato, non abbiamo il coraggio di fare quel passo in più e di lanciarci in una carriera che di sicuro sarà in salita, perché voglio dire, le carriere di successo non sono mai in discesa e mi viene da dire neanche per gli uomini. Quindi bisogna, secondo me, guardarsi un po' dentro, spolverare un po' di amor proprio, tirarlo fuori e soprattutto un po' di grinta. Giusy mi aiuta anche a fare un ragionamento più ampio e veramente la ringrazio per questo, perché il problema che lei solleva è, secondo me, un problema che riguarda tutta l'Europa, diciamo tutto il mondo occidentale. Allora, oggi l'80% degli iscritti a medicina sono femmine. Questa istruzione ha un costo. Ha un costo perché, specialmente certo, nei paesi come l'Italia, dove l'istruzione di fatto è, insomma, più o meno gratuita, di certo non ha i costi che hanno poi che ha l'istruzione negli altri paesi, questo è un costo per lo Stato, è un costo per il contribuente, oltre che per il genitore. Allora, la mia domanda è questa, che faccio a te, Maria, e che vorrei adesso che aprisse... Adesso sentiremo proprio anche Giuseppe Manca. Un dibattito. Ma l'Italia può permettersi di formare tutte queste dottoresse che poi dopo non mettono a frutto il loro talento, perché hanno paura, perché il sistema non le aiuta, perché ci sono tante difficoltà? Dottor Manca, lei che ne pensa? Ma senta, io non sono d'accordo con la dottoressa Giusy, perché io non so, credo che lei abbia avuto un'esperienza negativa, e per carità, le esperienze negative si possono avere, c'è qualche diciamo situazione che può aver determinato questa scelta, questo cambiamento di scelta. Io credo che in Italia ormai non ci sia più questa prevaricazione nei confronti della donna chirurgo, perché questo è dimostrato, come diceva la dottoressa Capua prima, dal fatto che ormai in medicina ci sono quasi tutte donne. Quindi sicuramente ai vertici fra poco saranno donne per forza. Non è possibile, non è che noi facciamo una formazione di donne che poi non utilizzano il loro sapere, assolutamente. Ormai, diciamo, a parer mio non esistono impedimenti di genere, quindi credo che se ci sono delle donne che si sentono frustrate, forse può dipendere da altri motivi, non dal fatto che vengono precarie. Da un punto di vista del carattere, no, dottor Manca, lei trova che sia complicato stare in una stessa corsia, in un reparto con delle donne, con delle colleghe medico? Mamma mia, no, questo è veramente un punto estremamente delicato. Logicamente, essendo così delicato, io esprimo il mio pensiero, certo, diciamo dedotto dall'esperienza. Io credo che la convivenza diventa un pochino più difficile quando ci sono uomini e donne, perché spesso diciamo questo è legato a un aspetto caratteriale che è tipicamente femminile. Cioè, mi fa un esempio, sempre in tempi stretti perché i minuti corrono? Diciamo che purtroppo le donne si sentono, diciamo, discriminate. Sentendosi discriminate tendono a, diciamo, essere più aggressive. Spesso, non voglio dire in modo violento, ma nel modo di cioè si arrabbiano, alzano la voce. Si arrabbiano, e questo, diciamo, rende sicuramente una competizione che è sempre costruttiva, però tende a creare un attrito all'interno del gruppo che non è sicuramente una situazione piacevole. Vado dalla nostra scienziata Ilaria Capua. Qui mi sembra di sentire l'eco delle parole del premio Nobel che disse: in laboratorio non si può lavorare con le donne perché noi ci innamoriamo di loro si innamorano di noi e se le rimproveriamo piangono. Infatti io la mia risposta a questo era stata: bene, mettiamo a fare i capi del laboratorio donne, in modo tale che nessuno si innamora di loro perché ormai sono vecchie e racchie, nessuno piange e si fa più ricerca. No, volevo riprendere... il dottor Manca che c'è un problema di carattere, le donne si arrabbiano, diventano nervose, cioè... Ma insomma... Forse alcune sì, alcune no, insomma dipende poi dalle situazioni nelle quali ci si trova. Insomma, io non mi sento di generalizzare. Quello che però mi sento di dire e di sostenere quello che ha detto il dottor Manca è che molto spesso i freni alla nostra carriera li mettiamo noi stesse, cioè esiste un panorama là fuori che è difficile, ma è difficile anche per i medici maschi in Italia, cioè è difficile. Per le donne un po' di più, ma mi viene da dire che noi stesse a volte, e questo io lo sento dire tantissimo, ci chiediamo ma ne vale la pena? Quindi se io voglio mettere su una famiglia, se io ho bisogno di essere comunque un perno per la mia famiglia anche di origine eccetera eccetera, mi imbarco in una situazione dove, di guerra, ma anche di lavoro molto impegnativo, perché questo è il nocciolo della questione. Ci sono pochissime donne cardiochirurgo, pochissime donne neurochirurgo. Perché? Perché è un lavoro molto molto impegnativo che richiede anche degli orari difficili. Allora io però dico, non è che qui c'è chi c'ha ragione e chi c'ha torto. Io dico, siamo di fronte alla femminilizzazione della professione medica. Quindi con questo problema dovremmo fare i conti, perché sennò dovremmo importare medici che magari arrivano dall'India, che arrivano dalla Cina, che arrivano da altre parti del mondo. Quindi, fermo restando che da un lato esiste una prevalenza di donne medico altissimo, dall'altro c'è questo gap e queste donne non riescono ad arrivare per mille motivi ai vertici, bisogna affrontare il problema facendo anche dei corsi di leadership alle donne, mettendo le donne in grado di affrontare momenti difficili di tensione e anche permettendo alle donne di gestire la famiglia e gli orari, diciamo, familiari con gli orari che richiede che sono richiesti in un impiego altamente professionalizzante come la chirurgia. Dottor Manca, per tornare alla lettera di Giusi, che consiglio darebbe a una giovane chirurga che a questo punto dice: io voglio fare davvero la chirurga, ma voglio avere tutta la possibilità di fare la carriera fino ai vertici? Guardi, io credo che chiunque, o uomo o donna che sia, se è determinata a fare il chirurgo come qualsiasi tipo di altra professione, lo può fare. Non si tratta di discriminazione, sicuramente di genere, di sesso, assolutamente no, ma si tratta solo di impegno e di volontà di voler arrivare e raggiungere l'obiettivo. Non ci sono altri motivi. Mi scusi, possono... c'è la diffidenza del paziente che di fronte a una chirurga donna forse si sente meno sicuro? Diciamo che questa situazione si può trovare in delle zone culturalmente un pochino più basse. Penso che un professionista, per dire, una persona diciamo di cultura, una persona diciamo normale, non trova più questo tipo di discriminazione. Negli ambienti, cioè io vivo in un ambiente diciamo dove a volte si sente ancora questa discriminazione, però ormai siamo agli sgoccioli. Dovrebbe essere un fattore ridimensionato. Mentre io ringrazio il dottor Manca per essere stato con noi, una domanda proprio al volo sintetica. Ilaria Capua, è più facile all'estero per una donna ricercatrice, per una scienziata di grandi qualità come sei tu? All'estero il ricercatore viene visto come se avesse il chador, quindi non si vede il colore della pelle, il genere, l'orientamento sessuale, religioso, qualunque caratteristica esteriore. Non conta. Conta quello che sai fare. Quindi, in linea di massima, è un po' più semplice. C'è da dire però che il problema di gestire questo enorme numero di donne che si laureano in materie scientifiche e non arrivano in alto esiste anche lì. Anzi, dovrebbero essere di più le donne. Certo che si laureano in materie scientifiche, in fisica, in ingegneria. Assolutamente. E vorrei dire che dobbiamo rendere questo sistema sostenibile. Non può essere un costo altissimo per la società senza dare i frutti che noi donne possiamo e sappiamo dare. Certo, se no paghiamo per la formazione e poi non la utilizziamo. Grazie Ilaria Capua, grazie al dottor Manca. Scrivete nessunaeperfetta@radio24.it. Noi torniamo con una sorpresa tra poco. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile, vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci, allora una eccezione per questa settimana. Ci sarà direttamente l'autrice della lettera, la dottoressa, la medica Giusi, e a darle consigli questa volta c'è Maria Serena Ciambellotti della Lares Consulting, la nostra coach. Allora, benvenute. E la prima cosa che vorrei chiedere a Giusi è di chiedere un consiglio, lei stessa, alla nostra coach. Buongiorno, sono Giusi Urgesi. Allora, io sono una specialista in chirurgia generale. Dopo la specializzazione... No, il consiglio. Andiamo dritti perché abbiamo pochi minuti, Giusi. Ah, ecco. Allora, cosa potrei garantire di mio al paziente? Visto che siamo in un ambiente un po' maschilista, un po'... Sì, come abbiamo un po' visto anche nella lettera. Maria Serena Ciambellotti, per conquistare la fiducia del paziente, ma evidentemente anche quella dell'ambiente di lavoro, parliamo di una giovane chirurga, perché ovviamente stiamo dando dei consigli soprattutto alle nuove generazioni, ma che cosa si può fare in un ambiente di lavoro difficile, come ci spiegava anche Giusi, come quello appunto della chirurgia? Ma innanzitutto mi verrebbe da dire sentire dentro di sé la fiducia e quindi essere particolarmente centrata su quello che Giusi ritiene essere il suo valore aggiunto nel esprimersi come chirurgo donna. Quindi mi verrebbe proprio da chiedere, da porre una domanda di questo tipo, quindi Giusi, quale pensi sia il tuo valore aggiunto, quindi il tuo fattore vincente nell'esprimerti come chirurgo donna? Sentiamo Giusi, qual è, se dovesse identificare il valore aggiunto come medico chirurgo? Innanzitutto il mio entusiasmo, che pur tra mille difficoltà non ho mai abbandonato, perché volevo però il paziente dell'entusiasmo se ne fa fino a un certo punto, Giusi. Il paziente vuole essere rassicurato e avere la qualità al massimo. Allora, quindi qual è la cosa su cui puntare? La sicurezza che io sento dentro di me dopo anni di chirurgia e comunque di attinenza che ho sempre sentito per questa materia. Ecco, allora, dottoressa Ciambellotti, come si può tradurre la sicurezza che la dottoressa Urgesi ormai ha acquisito in un messaggio chiaro da far arrivare nell'ambiente di lavoro e anche al paziente? Ma intanto è molto legato alla sicurezza che riusciamo a trasmettere, è molto legato anche alla come ci esprimiamo, quindi anche alla qualità della nostra voce, al come parliamo al paziente, perché è pur vero che il chirurgo opera quando il paziente è completamente addormentato, ma c'è un momento in cui c'è una relazione. Certo, quando uno sceglie un chirurgo piuttosto che un altro, fa una visita preliminare e poi prende le decisioni. In questi casi la voce conta, anche la voce conta, vero? Conta la voce, conta anche il contatto visivo, chiaro, aperto, no? Quindi che il medico è in grado di stabilire e mantenere con il paziente che ha di fronte. Quindi direi no al sguardo perso tra le carte o che scrive al computer o che prende appunti. Molto significativo e importante chiaramente prenderli, ma è nel momento in cui il paziente è lì, è a lui o a lei che è significativo dare il massimo dell'attenzione, il massimo dell'ascolto. Dottoressa Urgesi, è mai capitato che un boss, il capo del reparto, dicesse con chiarezza a lei o a un'altra chirurga: tanto di voi i pazienti non si fidano, è inutile che pensiate di fare carriera in questo modo? No, in questa maniera proprio così no. È capitato di essere legate ad interventi di livello minore, sicuramente sì. Con uno spreco di formazione, di anni di studio, sì, e anche uno spreco di soldi che sono stati investiti da voi personalmente e anche dallo Stato. Senta, dottoressa Ciambellotti, quando in un ambiente di lavoro viene proposto, diciamo, un incarico che non è adeguato alla propria preparazione? Ma innanzitutto sapersi, come dire, leggere dal punto di vista emozionale. Quindi nel momento in cui arriva la notizia, se la notizia arriva con una sorta di pugno allo stomaco che ci fa sentire rossi in volto o agitati, prendere tempo e riproporsi con un appuntamento alla persona che ha dato quindi un incarico, diciamo, svalutante della propria competenza professionale, in un momento in cui ci si senta più centrate e più assertive, no? Quindi in grado di sostenere una comunicazione che esprima in maniera chiara e pacata quelle che sono le proprie motivazioni a prendere invece in carico una sfida più interessante, più a livello della propria preparazione professionale. Quindi prendere distanza dalla propria reazione emotiva se al momento in cui la notizia viene comunicata ci si sente, e quella è una valutazione molto soggettiva, un po' sottosopra, ecco, completamente. Quindi prepararsi bene e poi una risposta. Giusy, abbiamo pochi secondi. C'è qualcosa che la dottoressa Ciambellotti può ancora segnalarti come buona pratica da seguire? No, non penso, perché ormai, voglio dire, la mia carriera è segnata, e comunque, voglio dire, io adesso lavoro in un pronto soccorso perché ho scelto comunque un'altra strada per non rimanere comunque a vita, accontentarmi a vita di eseguire interventi di medio livello. Io adesso sono un medico di pronto soccorso. Ed è una bellissima e gratificante esperienza, anche se immagino sia molto faticosa. La nostra coach nell'ultimo minuto e mezzo forse può però darci un'ultima pillola di saggezza. Quando capita di fare poi una scelta diversa proprio per non finire a fare un lavoro per il quale non si era studiato tanto, Come raccontarla a se stesse soprattutto? È una scelta importante, ma potrebbe anche farci sentire una scelta di ripiego, e invece non lo è. Come ce la possiamo raccontare a noi stesse oltre che agli altri? Intanto mi viene da dare questo, questa indicazione. Fare proprio un piccolo elenco di quelli che sono i lati negativi di questa scelta su un foglio e trasformarli proprio per iscritto in opportunità. Questo richiede uno sforzo di creatività e di anche tempo, no? Non è detto che venga immediatamente questa soluzione, ma è concretamente l'azione più positiva che ci possa indirizzare verso il sentire vivere la situazione professionale come una occasione e non come un ripiego. Bene, mi sembra che Giusy a questo punto ce lo possa dire lei. Una cosa che rispetto al non aver fatto la chirurga non le manca, ma è anzi è stata un'aggiunta, qualcosa che le è venuta in più dalla sua esperienza ora di medico di pronto soccorso. E appunto il contatto con patologie che in un reparto esclusivamente chirurgico non si affrontano, molte patologie internistiche come infarti del miocardio, edemi polmonari, la pediatria. Quindi in pratica ha imparato molte più cose, molte più cose. E la cosa mi ha portato a non tornare in un reparto di chirurgia. Grazie a Giusy Urgesi, medico chirurgo, e grazie a Maria Serena Ciambellotti, la nostra coach di questa domenica. Buona domenica a chi ci ha seguito. Io vi ricordo che potete sempre scriverci a nessunaeperfetta@radio24.it, mandarci un sms al 349-238-6666 e commentare la puntata su Twitter con l'hashtag nessunaeperfetta. Buona domenica a tutte, chirurghe, scienziate, taxiste. Ricordatevi che vale per tutte noi il multitasking. È una grande fregatura.